in diretta. Allora, ci sei, pronto? Sì, eccoci. Un saluto a tutti e a tutti. Allora, il saluto va a te, ovviamente. Dunque, giornata di sciopero, diciamo, nel settore della logistica. Insomma, com'è andata? Com'è andata questa giornata? In poche parole, se ce la fai a fare un minimo di bilancio. Sì, allora, lo sciopero è andato bene, con altissime adesioni nelle sedi, soprattutto di SDA, ma anche Bartolini, dove insomma già da tempo è in atto una vertenza. E la giornata si è svolta insomma con un volantinaggio, un presidio anche di fronte ad altre sedi che stanno nella stessa zona di DHL e TNT, dove qualcosa anche lì si inizia a muovere, perché è evidente anche tra i lavoratori stessi che sanno benissimo che tutta la lotta non va combattuta in un singolo, in una singola sede, una singola azienda, ma è tutto il settore che deve essere interessato alla mobilitazione. Oggi in particolare la mobilitazione era per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, però insomma su cui trapela poco, e quello che trapela è molto negativo. Comunque c'è tanto insomma da conquistare dal punto di vista delle condizioni di lavoro, del salario e dei ritmi in generale, ritmi di lavoro, e questo è stato insomma detto ad alta voce ripetutamente da tutti i lavoratori che hanno partecipato insomma tutta la giornata, che poi si è svolta con un corteo che è passato davanti a diverse sedi, perché quello è un comprensorio dove è pieno di capannoni, e si è passato in corteo di fronte alle diverse sedi per rilanciare le parole d'ordine della giornata di sciopero. Ho capito. Beh, insomma, già rappresenta un aspetto importante il fatto che anche dalle altre sedi, al di là di quella diciamo in cui più fino adesso la lotta è montata, che ci sia comunque un interesse, e che questo sia insomma percepito in maniera forte dai lavoratori, nel senso che mi sembra insomma che questi soggetti, è vero che subiscono un ricatto costante, ma da un certo punto di vista insomma si rendono conto che occorre superarla questa paura, no? Sì, dobbiamo dire che insomma mentre stavamo lì in corteo arrivavano notizie da altri sedi in Italia, Ancona, Bologna, Milano, non so dove lo sciopero è stato fatto e dove è andata molto bene. Insomma, abbiamo notizie di adesioni al 100% in molti posti di lavoro. Questo sicuramente rafforza tutti quanti, ed è da una parte insomma una cosa che dà fiducia, e dall'altra dà anche il segnale che l'avvertenza si può vincere. E questa a Roma insomma, in particolare è nata sull'onda delle lotte che sono state fatte al centro nord e dei successi, che poi dobbiamo anche parlare di questo, insomma dei risultati concreti che vengono ottenuti, e la stessa cosa sta avvenendo a Roma, nel senso che in alcune sedi, in principale modo SDA che si è mossa per primo, sono stati raggiunti i risultati, e questa cosa è conosciuta anche in altre sedi, e quindi sono altri lavoratori che capiscono che si possono ottenere dei risultati, e quindi la loro insoddisfazione non è non è che si trasforma semplicemente in sterile lamento, ma diventa azione concreta per migliorare le proprie condizioni. Questo è chiaramente un processo che non è che viene dall'oggi al domani e va sicuramente costruito e rafforzato, ma giornate come quelle di oggi danno un segnale forte a tutta la zona, sia di vedere lavoratori in prima persona che si mobilitano, sia anche vedere che c'è un sostegno esterno che sicuramente fa piacere ai lavoratori, e sanno che non c'è soli. Ma d'altronde l'importanza per noi diciamo come lavoratori che però non lavorano in quel settore è che rafforzando una lotta del genere si rafforza insomma un po' tutto il mondo del lavoro, perché l'attacco che viene fatto in generale è pesantissimo, il rinnovo che si prospetta del contratto della logistica non è che sia poi diverso da quello che si prospetta in altri posti di lavoro, quindi iniziare a rispondere è una cosa che rafforza tutti quanti. Certo, e senza dubbio, insomma, questo tipo di iniziative, anche il sol sentire che in questo o quel magazzino i lavoratori di questa o quella cooperativa si stanno mettendo insieme, insomma, per organizzarsi, può rivelarsi assolutamente contagioso anche per le altre aziende. A proposito, reazioni della controparte, avete sentore di qualcosa? Ancora no, ancora è presto. Sappiamo che si sono organizzati nei giorni precedenti, in cui informavano, cioè, i propri clienti di questo sciopero, e quindi magari di anticipare le varie consegne, dicendo che, insomma, questo sciopero è indipendente dalla loro volontà, e che insomma, fa un po' sorridere, perché è come se uno scioperasse così per fare un dispetto all'azienda e non perché portato da dei problemi. Insomma, comunque sono persone che rinunciano a dei soldi, evidentemente se lo fanno ci sarà un motivo che non è proprio indipendente dalla volontà dell'azienda. Dopodiché insomma, sulle conseguenze, le varie contromosse sapremo ai giorni successivi, però insomma, alcuni posti erano proprio chiusi dato che non c'era nessuno a lavorare, quindi hanno cercato di, magari spostando la lavorazione in altri posti, però queste cose possiamo verificare, insomma, nei prossimi giorni. Sappiamo che però in precedenza, insomma, sciopero che c'è stato il 2 maggio sempre a Roma, sapendo di questo sciopero altri posti, magari nel nord Italia, dove erano state smistate le lavorazioni, i lavoratori stessi erano rifiutati di lavorare, quindi in solidarietà, lavorare, insomma, quelle spedizioni proprio in solidarietà con i lavoratori di Roma, quindi anche questo è un bel segnale di solidarietà tra i lavoratori stessi. L'altra cosa che volevo sottolineare, insomma, la maturità di questa avvertenza è che i lavoratori stessi individuano in prima persona le cooperative, cioè il sistema basato sulle cooperative è un sistema che va smantellato, quindi non è che si richiede semplicemente un miglioramento delle condizioni alla cooperativa, ma si chiede proprio che questo sistema, così come è fatto, smetta di esistere, e che insomma venga meno questo ulteriore passaggio precarizzante che, insomma, deresponsabilizza le società e rende molto più facile spesso proprio scappare con la cassa senza neanche pagare il dovuto a chi lavora. Beh sì, assolutamente, anche perché insomma la logica dell'appalto è ben visibile, ad esempio cioè è visibile dappertutto, ma l'altro giorno mi è capitato, insomma, di approfondire un minimo, di leggere qualcosa a proposito della vertenza Granarolo, e insomma anche lì è ben visibile questa logica dell'appalto, perché è una sorta di scarica a barile, no? Quello che viene fatto. Granarolo paga regolarmente CTL, che a sua volta paga regolarmente SGB, e solo attraverso questo tipo di menzioni si capisce, insomma, quanto è approfondita questa catena che vede, insomma, appaltare di volta in volta o subappaltare i servizi e la gestione degli stessi, e di questo ovviamente, insomma, ne fanno le spese i lavoratori. Senti Cristiano, un'ultima cosa, no, niente, semplicemente il ribadire il fatto che ormai dall'inizio del 2013 questo tipo di giornate stanno accadendo con una certa continuità, perché c'è stata la giornata del 3 gennaio, tu hai ricordato quella del 2 maggio, a seguito questa del 15 maggio, insomma c'è ormai... Anche a fine dicembre, insomma, c'è stato uno sciopero sempre in SDA poco prima di Natale, quello ha pesantemente colpito, diciamo, la produzione, il periodo in cui i regali di Natale viaggio, tra i maggiori committenti di SDA c'è Amazon, e quindi in quel periodo, certo, si è stato fatto un grosso danno. Benissimo, va bene, allora ci risentiamo sicuramente nelle prossime ore, anche voi avrete sicuramente l'opportunità nei prossimi giorni di riflettere sull'andamento e di fare un bilancio, insomma, su questa giornata, e probabilmente lo sentiremo anche dalle vostre voci qui dai microfoni il lunedì sera. Grazie per la tua disponibilità e a presto. A presto, un saluto a tutti e a tutti. Ciao. Chi lentamente vuole trasformarti in numero, coi fatti dimostrerò che ribellarsi si può, nei loro conti giusti.